Perché? Questa è la domanda che più spesso mi pongono. Pourquoi? Perché? A che scopo? Perché tu cammini sul filo? Perché tu sfidi il destino? Per me, camminare sul filo è la vita. Sì, la vita. I funamboli, cronache di un paese in equilibrio. Di Alessandro Milan, con Veronica Gentili e Leonardo Manera. Signori, oggi la puntata dei funamboli è ricchissima. Cara Veronica, buongiorno e bentrovata. Buongiorno, devo dirti che sono abbastanza entusiasta anch'io di questa puntata. Abbastanza, lavoreremo per toglierlo quell'abbastanza. No, abbastanza perché se mi faccio prendere troppo la mano, poi prometto fuochi d'artificio, uno si aspetta, no? Allora, certo. Cerco di tenere, però è una puntata molto densa. Alle 9 e 9 minuti, buongiorno a tutti, diamo il numero di telefono 800 24 00 24. Parleremo intanto subito di lotta alla criminalità organizzata. Sapete che qualche giorno fa la vicenda dell'arresto del sindaco di Seregno, accusato di essere proprio al servizio dei boss, ha colpito molto. Oltretutto oggi è stato varato il nuovo codice antimafia, ecco, no. Quindi siamo proprio sull'attualità estrema, come dire, con grande soddisfazione di molti, qualche perplessità di qualcuno, per cui su questo in particolare sarà interessante sentire l'opinione dei nostri ospiti. Eh sì, e infatti il numero l'abbiamo dato, se volete scriverci sms 349-238-6666, meglio WhatsApp, meglio anche in audio, così vi sentiamo, ormai siamo interattivi. Cara Veronica, partiamo subito, dai! Giustamente tu hai detto della riforma del codice antimafia approvata alla Camera, anche con polemiche. È una misura, questa è la notizia che fa più discutere, che di fatto equipara i mafiosi ai corrotti per quel che riguarda anche il sequestro preventivo dei beni, perché ora ci sarà la possibilità di sequestrare i beni anche ai chi ha commesso reati di corruzione, concussione, terrorismo e stalking, paragonandoli ai reati di mafia. Per questo, ed è su questo che qualcuno ha mostrato già delle perplessità. Assolutamente. Infatti vogliamo salutare, lo ringraziamo molto, il procuratore capo di Catanzaro, Nicola Gratteri, che è uno dei magistrati che ha più esperienza in Italia e anche a livello internazionale di lotta all'andrangheta. Lo salutiamo, grazie dottor Gratteri di essere con noi. Buongiorno. Le chiediamo subito un giudizio su questo codice antimafia. È troppo esagerato oppure ci sta? No, ma intanto lo stiamo studiando, non possiamo dare una valutazione o un giudizio definitivo, immediato, affrettato. Quello che posso dire è che intanto non è che prima non si poteva sequestrare, si poteva sequestrare i beni ai corrotti o comunque a persone che avevano commesso dei reati non di mafia, perché ad esempio c'era la possibilità di fare sequestri preventivi, di applicare il 12-sexies, che è una norma che noi applichiamo quasi in automatico, ogni indagine, ogni arresto in automatico chiediamo il sequestro, quindi non è, si poteva fare poi questa, non è questa grande rivoluzione, potevamo già farlo da prima. La cosa invece che mi lascia perplesso è invece la gestione di questi beni, cioè il fatto, il dato che si dia maggiore potere ai magistrati, il fatto che si dia maggiore possibilità di prolungare la gestione del sequestro fino alla confisca, quindi fino all'appello, tenendo la gestione in mano ai magistrati e agli amministratori. E perché è perplesso? Questo perplesso perché io sono di avviso diametralmente opposto. Io ho fatto in un mio progetto di riforma, cioè da me presieduto, un articolato di legge dove prevedevo esattamente l'opposto, cioè prevedevo che l'Agenzia dei Beni Confiscati intervenisse da subito, prima possibile, perché intanto i magistrati non sono attrezzati, non hanno le conoscenze specifiche della gestione di un bene, sì, e non possiamo lasciare tutto nelle mani ecco di un amministratore giudiziario. Noi dobbiamo, il magistrato è stato programmato, ha studiato per altro, non per... Per gestire... Procuratore, ma su questo non c'è una stretta, però, con lo stop alla parentopoli, quindi dicono che non si possa gestire per più di tre mesi, lasciare in mano all'amministratore no, i parenti? No, non per più di tre mesi, per più di tre incarichi, cioè tre incarichi. Sì. Sa, questa mi sembra come il provveditore agli studi con le supplenze, cioè se io voglio aiutare una mia amica o mio amico, a quelli che vengono prima del mio amico o mia amica gli do la supplenza di una settimana, poi quando c'è l'incarico annuale glielo do al mio amico, e stessa cosa, io do la gestione di due botteghe a persone che non sono mie amiche, al mio amico gli do la gestione del supermercato. Quindi abbiamo già trovato due punti, procuratore, quindi studiare, e secondo lei da valutare e modificare. Infatti nel mio articolato di legge era previsto l'assegnazione non per numeri di incarichi, ma per valore. Per cioè valore. Tu al tizio gli dai il supermercato, però agli altri gli devi dare tanti altri incarichi fino a livellare il valore, perché poi calcolate che ci sono delle parcelle spaventose, e allora la Sicilia non ci ha insegnato nulla, cioè ci sono liquidazioni da 1 milione, 2 milioni, c'è di c'è il rischio che diventi un affare la gestione ma di nemmeno quando lei va nemmeno quando lei andrà in pensione avrà una liquidazione del genere. Qua stiamo parlando di una liquidazione per un solo incarico, qui stiamo parlando di una liquidazione solo per un incarico, ma si rende conto? Sì. E poi parliamo di spese di gestione, ci sarà un'impennata delle spese di giustizia. Va bene, procuratore, è da studiare, però alcuni punti mi sembra che lei li abbia già evidenziati come critici, da mettere a posto. Procuratore, io le volevo chiedere, rispetto alle cose di cui lei ha parlato negli ultimi giorni, cioè la faccia della mafia che è completamente cambiata, questa specie di mafia 2.0 che è passata dalla Coppola alla Lupara a titoli di studio e colletti bianchi, e lei parla di modello replicabile. Ci dice di più, ci racconta allora, un attimo. Intanto queste cose non le dico adesso, ma le sto dicendo da decenni. Cioè le mafie non sono una struttura statica, sono una struttura che si modifica, si modella col mutare sociale. Che le mafie vivono tra di noi, perché se le mafie fossero una struttura statica sarebbero facilmente indudabili e battibili. Le mafie si muovono e si nutrono del nostro consenso, altrimenti non sarebbero mafie, sarebbero criminalità organizzate, criminalità comune, gangsterismo, come ad esempio in tantissime parti della Campania che si continua a chiamarla camorra. Sì. Ma se noi pensiamo quindi a una struttura che si evolve, che cambia, e i figli degli indrangatisti sono professionisti da 30 anni, dagli anni 70 che i figli dei capi mafia sono andati all'università, e oggi da incensurati gestiscono la cosa pubblica in modo mafioso. Sono i cosiddetti colletti bianchi. Però procuratore, adesso noi parleremo, dopo che l'abbiamo salutata, della questione anche di Seregno. Allora, io Alessandro Milan, ho ancora il candore in qualche modo di stupirmi quando leggo un sindaco, era, per carità, siamo tutti garantisti, probabilmente lo zerbino del boss. Faccio bene ancora a stupirmi oppure no? Assolutamente no, perché le mafie sono radicate, non infiltrate, attenzione ai termini, radicate in Piemonte, in Lombardia, almeno dalla metà degli anni 70, dopo che la Procura di Torino ha concluso un'importante indagine sul clan dei Catanesi, che ha liberato il Piemonte da Cosa Nostra e immediatamente è stata soppiantata in modo strutturale e strutturato dall''Ndrangheta. Oggi sempre più la politica è debole e sempre più in un territorio è dominante l''Ndrangheta, che detta l'agenda, e sono i politici sempre più che vanno dai capi mafia a chiedere pacchetti di voti in cambio di appalti, perché le mafie oggi danno risposte anche in termini occupazionali, vogliamo di lavoro nero, sottopagato, tutto quello che vogliamo, danno risposte che la politica ormai da decenni non dà più. Ma io quando dico stupisco, lei dice sempre più, è quella percentuale da chiarire, perché sa, è sempre la percentuale più. È altissima, guarda, è altissima, cioè le mafie, noi ci muoviamo, noi siamo tendenzialmente grandi individualisti, ci muoviamo in ordine sparso. L''Ndrangheta è una minoranza anche in Calabria, anche nei paesi ad alta densità mafiosa. In Calabria sono una minoranza, ma è una minoranza organizzata. basta che il capo mafia prenda il caffè al bar con il candidato o si faccia un giro in macchina, letteralmente noi abbiamo l'intercettazione di un candidato che dice: io basta che mi fa che passo una volta sola, che salgo sul suo fuoristrada, si riferiva al capo mafia, e passo sul corso del paese, è fatta, io sono il candidato. Procuratore, le volevo chiedere un'ultima cosa prima di lasciarla. Il ruolo della massoneria, che sembra aver assunto un'importanza anche appunto rispetto al lavoro della commissione antimafia, erano stati chiesti i nomi e non sono stati dati, c'è stata un'assenza di trasparenza, si parlava della massoneria come un elemento importante nelle nuove mafie. Guardi, la massoneria deviata interagisce con l'andrangheta dal 1970. Mm-hmm. E continuiamo a stupirci di cose che già da decenni sono state da noi scritte, dette, documentate. Sì. E quindi è una risposta chiara dal 1970. Che dice che noi nei decenni, noi magistrati, noi forze dell'ordine, noi giornalisti, noi storici, noi professori universitari, noi formatori abbiamo sottovalutato e non raccontato, minimizzando, e quando l'abbiamo raccontata l'abbiamo rimentizzata, perché per decenni abbiamo sentito la storiella dell'andrangheta fatta di pastori, di rozzi, di sequestratori di persona con la coppola e la lupara. Così non è. Quindi siamo tutti coloro i quali hanno una funzione e un ruolo sociale, anche di educatore o di divulgatori, siamo colpevoli. La ringraziamo molto, procuratore Nicola Gratteri, per essere stato con noi. Ricordiamo, procuratore capo a Catanzaro. E tra l'altro ripartiamo da qui, perché due ospiti che sono con noi hanno ascoltato le interessanti parole di Gratteri da quell'intercettazione che è finita un po' su tutti i notiziari, su tutti i giornali. Il sindaco di Seregno che è stato arrestato. Pronto, Antonio? Sì, ciao Edoardo. Allora, io entro settimana prossima devo farla fuori questa tua cosa. C'è una cosa che devo fare io, Edoardo, la faccio in 3 minuti, io in 3 minuti risolvo tutti i problemi. La prima pratica che doveva andare dopo la campagna elettorale era la mia, la prima. Ogni ciao. Ciao Edoardo. Ogni promessa è debito, no? Non avevo dubbi. Non devi arrabbiarti, tranquillo, fatto, tutto a posto. Grazie. È il sindaco che, secondo queste e altre intercettazioni, si mette a disposizione di un imprenditore che è considerato vicino all'andrangheta. Allora salutiamo Esther Castano, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Esther Castano, e salutiamo insieme a lei anche il sindaco di Buccinasco, Rino Pruiti. Buongiorno sindaco. Buongiorno a voi. Allora, Esther Castano è una studentessa, classe 1990, quindi invidia totale, giovanissima. È giornalista, collega, collaboratrice di La Press. Esther Castano, per carità, siamo un paese in cui si usa sempre la parola eroi, monumenti, no, niente di tutto questo, però è la prima giornalista che ha scritto delle infiltrazioni nel comune di Sedriano, che poi è stato sciolto, primo comune sciolto per mafia in Lombardia. Esther, com'è andata quando hai scritto di queste cose? È andata che è stata una bella inchiesta, una bella indagine che, come quella saltata agli onori delle cronache 2 giorni fa, che riguarda il sindaco di Seregno, ha ancora una volta affermato come l'andrangheta oggi in Lombardia è realtà, e fa bene il dottor Gratteri a parlare di radicalità e non più di colonizzazione o di infiltrazione. Un territorio come la Lombardia, la Brianza, che è stato definito dai magistrati franchising dell'andrangheta, una zona che ha un franchising dell'andrangheta. E anche ieri, l'altro ieri, ci siamo trovati di fronte a un trittico, il sindaco, il politico e l'imprenditore collegato alle cosche della mafia. In parte era stato così anche nell'inchiesta che poi portò allo scioglimento del comune di Sedriano per mafia, il primo caso in Lombardia. Questa andrangheta che non ha più bisogno di bussare alle porte dei consigli comunali, perché all'interno, nell'istituzione cittadina, ha già qualcuno che governa. Esther, ma volevo chiederti una cosa. Secondo te c'è anche una ritrosia, una sorta di pudore da parte del Nord Italia ad ammettere la presenza dell'andrangheta sul territorio? In realtà, da Crimine Infinito, che portò in carcere circa 300 persone, di cui quasi la metà in Lombardia nel 2010, quello è l'anno zero per l'affermazione della consapevolezza che l'andrangheta oggi esiste in Lombardia, in realtà. Da quel giorno oltre al fiorire delle inchieste, c'è stato anche un proliferarsi di associazioni, attività e gruppi antimafia, quindi anche di questo dobbiamo parlare, non solo degli arresti, ma anche di quanto oggi si taccia del contrasto, gruppi di studenti, di giovani attivisti, di 'ndrangheta oggi se ne parla. Certo, sì, come dice la Boccassini, è incredibile come dopo 7 anni da Crimine Infinito, che è l'anno zero della consapevolezza, siamo ancora di fronte a un sistema di omertà e di convivenza. Come ci diceva anche un po' Nicola Gratteri, io vorrei andare un attimo dal sindaco di Buccinasco. Buccinasco è una città alle porte di Milano, dove tra gli altri c'è anche, risiede Rocco Papalia, che, con il quale lei ha avuto, diciamo, uno scambio, se si vuole, epistolare, o meglio con i suoi avvocati. Chi è Rocco Papalia, sindaco Pruiti? Può dirlo, sì, agli ascoltatori? Sì, buongiorno. Non c'è solo Rocco Papalia, purtroppo, su questo territorio. Qui negli anni 70, 80 e fino alla fine degli anni 90 c'è stata quella che io chiamo l'intelligence dell'andrangheta al nord, cioè le famiglie, le 'ndrine locali che di fatto governavano tutto il sud-ovest Milano, quindi tutta una parte che poi è arrivata anche all'interno della città di Milano. Rocco Papalia è una persona condannata a 124 anni di carcere per la somma di determinate condanne. Poi io rispetto la legge, me ne faccio una ragione, ma non condivido. Siccome non è mai stato condannato all'ergastolo e ha fatto il carcere duro per 25 anni, è stato scarcerato ed è in libertà, in totale libertà di fatto, di azione, sul nostro territorio. Però sindaco, ci aiuta a capire, perché lei ha scritto, insomma, Rocco Papalia ha detto: smettetela di parlare di me, e lei ha risposto: no, noi continueremo a parlare. Lei ha scritto una lettera durissima su questo, dicendo: anzi, noi continueremo a parlare, nonostante di solito uno tenti di far dimenticare questo, noi ci teniamo a ribadire che questa è diventata la platì del nord a causa di Rocco Papalia. Certo, e tra l'altro, scusi, certo, sindaco, per completare, è stata incendiata una macchina davanti a casa sua 2 giorni fa ieri mattina. Ecco, non so se i fatti siano collegati, ma, come dire, non è che in genere si incendiano le macchine alle 7 del mattino di fronte alla casa del sindaco. Sì, diciamo che sono successi tutta una serie di episodi. Noi però non partiamo, la mia elezione al sindaco del 27 giugno, ma io ho una storia di 15 anni come vice sindaco e consigliere di opposizione su questo territorio. Dal 2002 ci battiamo in maniera civile contro le mafie, a livello culturale ma anche a livello amministrativo. E quindi quando il Papalia è stato scarcerato, è tornato a casa sua, ma in realtà è anche casa nostra, perché metà della sua casa è nostra, cioè lo Stato l'ha confiscata e lì gli abbiamo messo dei minori non accompagnati con un progetto di inclusione. Quindi quando io vado a trovare questi ragazzi, praticamente vado a casa Papalia e le 2 porzioni di casa sono separate da delle cannette messe a mo' di separè. Quindi immaginatevi la situazione. L'acqua, ma è in questo spazio, sindaco, che leggevo che lei ha intenzione di fare tutta una serie di iniziative. Sì, proprio... le stiamo facendo, perché, ecco, è proprio lì che devono essere accanto a lui proprio. È lì che devono proprio essere fatte. È lì che, sì, infatti, certo, i vostri colleghi non più tardi di qualche giorno fa hanno fatto un convegno proprio nel cortile di questa abitazione, sì, promosso dai cronisti lombardi con Cesare Giuzzi e altri, e quindi abbiamo parlato e sicuramente, visto che c'era l'amplificazione, si sarà sentito anche dal vicino di casa. Ed è questo che vogliamo fare. Lui ha fatto scrivere questa lettera dai suoi avvocati, purtroppo era il, sì, 7 di agosto, io l'ho ricevuto un po' dopo perché ero via per una settimana di ferie, e dove di fatto, con parole gentili ma chiare e decise, mi si invitava al silenzio. Ecco, se questo era lo scopo, temo ha ottenuto lo scopo contrario, questo. Perché qui cioè, c'è una cosa che non faremo mai, è stare zitti. Io, cioè, no, vorrei chiedere un attimo anche a Esther Castano, perché forse ha un po' eluso la mia prima domanda, forse è stato un po' troppo brutale, ma la tua vita, Esther, è un po' cambiata quando hai scritto di Sedriano, cioè quel silenzio di cui parla il sindaco, l'hai percepito un po' anche attorno, anche da parte di colleghi, se non sbaglio, oppure non silenzio ma anche derisione, è vero? Diciamo che inizialmente, quando scrivo per Alto Milanese, quindi quando ho iniziato a fare l'inchiesta sull'andrangheta Sedriano, non sono stati tanti colleghi che mi hanno seguita. Parlo a livello locale, c'è stata anche molta derisione, sono stata descritta sulla stampa locale come la visionaria dell''Ndrangheta al nord. L'inchiesta della magistratura ha detto tutt'altro invece, quindi da quel punto di vista abbiamo avuto la certezza che l''Ndrangheta nel territorio milanese c'è e che è un problema non solo a Sedriano ma in altri comuni dell'Interland. Esther, ma tu hai avuto delle vere e proprie controversie con il sindaco, ho letto, che ti definiva persona violenta e aggressiva addirittura. Sono stata querelata, assolta assolutamente in tutti i procedimenti in cui sono stata implicata. Il sindaco non è più sindaco, ecco. Il sindaco non è più sindaco, allora la situazione è ancora tu. Visionaria no. Non ero, ecco, esatto. Allora dobbiamo dire: il sindaco non è più sindaco, il comune è stato sciolto per mafia, il sindaco è stato assolto in primo grado, corretto, Esther? Certo, poi, ci sarà il secondo grado. È stato assolto in primo grado, diciamo che non ne viene fuori benissimo perché comunque ai compleanni con il presunto boss condannato come tale non ci andavo io, ma ci andava il primo cittadino quando era in carica. Chiaro. C'è Cristian da Brescia, poi doveva andare in pubblicità. Due ascoltatori se ce la facciamo. Cristian da Brescia, buongiorno. Buongiorno. Chiamavo semplicemente per fare una premessa. Io sono giovane assessore comunale, ho 28 anni. Ho la fortuna di gestire case comunali e servizi sociali. Oggi, alla notizia che è stata approvata questa legge antimafia, onestamente sono sia contento ma anche infelice, perché ad oggi se uno vuol fare l'amministratore è sempre difficile, è sempre un timore, si ha sempre la paura di commettere qualcosa di sbagliato, di finire sulla pubblica gogna, essere messo al pubblico ludibrio e poi essere giudicato e a maggior ragione essere sequestrato dei propri beni. Io faccio l'esempio. Faccio un'assegnazione con delibera e dunque approvata dalla giunta, un'assegnazione comunale di un alloggio, potrei essere magari additato come uno che è stato corrotto, che ha ricevuto i soldi in cambio. Cioè lei, Cristian, sta dicendo potrebbero esserci problemi pratici per chi fa l'amministratore, ma ed è una considerazione a mio modo di vedere legittima, perché il timore di equiparare chi è accusato di corruzione, chi è accusato addirittura appunto di stalking alla mafia è una preoccupazione che molti hanno detto, ma così non è un'esagerazione? È una domanda alla quale effettivamente una risposta. Su questo Gratteri ha detto dobbiamo studiare meglio, su altro ha trovato già qualche punto da correggere. Vedremo. È quello lì, perché anche dare un contributo da delibera che poi ha approvato a una famiglia bisognosa, uno potrebbe magari dire ok, hai riconosciuto 500 euro a questa famiglia per pagare le utenze, e chi è? Però chi non mi dice che metà farete metà voi. Grazie Cristian, questo Veronica è un problema, eh? C'è anche un altro ascoltatore, mi dicono maestro massone, perché altri hanno scritto, si sono sentiti offesi dicendo non confondete la massoneria con la massoneria deviata, questa è la parola che ha usato Gratteri, deviata. Mario comunque da Firenze, buongiorno. Sì, ciao, buongiorno Funambolo. Ciao massone. Sono maestro massone di Firenze e francamente mi sono rotto abbastanza le scatole di sempre questo connubio tra 'Ndrangheta e massoneria. Poi dopo si massoneria dice deviata. Dopo si dice deviata. Le parole sono importanti. Le parole. Allora, sì, è vero. Allora, bisognerebbe sapere che in Italia ci sono attorno alle 300 massonerie, 300 obbedienze. La più grossa è il GOI, poi c'è la Grande Loggia Riunita d'Italia e dintorni. Quindi, essendo almeno 300 obbedienze riconosciute, spiegatemi cosa vuol dire massoneria deviata. E ci sarà qualcuno, adesso non è qui Gratteri, non ci sarà qualcuno. Ci saranno alcuni elementi della massoneria che probabilmente sono collusi con l''Ndrangheta. Le faccio un'altra domanda: cosa vuol dire servizi segreti deviati? Non è che i servizi segreti sono il male, i servizi segreti deviati, quando si usa questa parola. Però è stato detto prima massoneria, poi dopo lui ha detto massoneria deviata. Cioè sempre. Allora, la domanda di Veronica era: è giusto pubblicare i nomi? È stato un dibattito molto. Relazione tra quelli che sono stata la ritrosia della massoneria a dare la lista dei nomi e il fatto che da qui si siano fatte delle insinuazioni sul fatto che ci siano degli elementi dell''Ndrangheta, questa è la domanda, non è che uno faccia poi di questo un sillogismo per cui i massoni sono 'ndranghetisti. Oddio. Ce ne scampi e liberi. Scusi Mario, le domande si possono fare, no? Certo, le domande si possono fare, però la massoneria è riconosciuta dallo Stato italiano. Ci sono delle regole all'interno dello Stato italiano sulla privacy e tutto il resto. Chiedere le liste di tutti i massoni d'Italia quando si vuole indagare magari Mario Rossi della loggia tal dei tali, È sbagliato. E questa è la sua risposta, cioè in senso... Lei dice... è sbagliato, è al di fuori. Poi cioè, un'ultimissima cosa. Sì. Però questa polemica l'avrà seguita anche lei, Mario. Sul fatto... certo, non le abbiamo raccontato nulla che non sapesse no, già. Però Mario, si fermi lì perché siamo già in ritardo di 3 minuti. Dobbiamo dare la pubblicità. Abbiamo capito la sua posizione e lei dice pubblicare le liste secondo lei è sbagliato. È una sua posizione legittima. Ringraziamo il sindaco di Buccinasco, Rino Pruiti, e Esther Castano, giornalista della Press, ma anche del portale stampoantimafioso.it, se volete andare a vedere. Dobbiamo correre in pubblicità, cara Veronica. Abbiamo fatto tardi. Tra poco. I funamboli. Allora, cara Veronica, ci chiedono ancora il sito di Esther Castano, lo ridico, stampoantimafioso.it, cioè quello per cui collabora, Esther Castano. Chiedono anche se ascoltatore sei... sono? Se sei parente del nostro direttore Guido Gentili. Sì, l'ho già detto, è mio zio. No, ma perché no, insistete a farmi questa domanda tutte le volte? Non c'è alcuna parentela, non c'è alcuna parentela. Ma altrimenti perché dovrei essere qui a lavorare? Scusami, abbi pazienza. Siamo o non siamo in Italia? Io mica faccio l'inglese. Ma vedi, gli italiani zio, subito... Zio, grazie all'ascolto. Subito devono pensare queste cose. Poi, che anche se poi fosse, ma che poi non lo è, ma io non lo so. Ma anche se fossi la nipotina prediletta di zio e fossi qui per questo, io non vedo che cosa... Ancora vi stupite, faccio come con i concorsi universitari, ancora vi stupite. Si sa che l'Italia funziona così. Nessuna parentela. Allora, cara Veronica, alle 9:38 minuti dobbiamo parlare di questo caso che è un caso drammatico. Perché forse lo ricordate, qualche tempo fa il delitto di Nadia Orlando. Una delle storie che quest'estate ci ha lasciato tutti senza parole. Uccisa dal compagno di allora, che di fatto dopo 2 mesi di carcere è stato messo col braccetto elettronico agli arresti domiciliari. Ora qui siamo tutto fuorché forcaioli, nessuno invoca, no Veronica, né violenze, né reazioni, né vendette. Anzi. Però un rigore, insomma, un banale rigore. Cioè l'immagine di dire che una persona che ha ucciso la fidanzata e dopo 2 mesi è, per carità, agli arresti domiciliari, a mio modo di vedere non è un segnale rigoroso. Ecco. Sicuramente non suona bene neanche per tutti coloro che sono stati implicati nella vicenda, per il paese, per la realtà in cui è accaduto e tantomeno per la famiglia di Nadia, di questa donna. Tanto è vero che il sindaco di Dignano, siamo in provincia di Udine e lo salutiamo, Riccardo Zuccolo, buongiorno sindaco. Grazie. Buongiorno a voi e grazie di avermi chiamato. Ma grazie davvero a lei per la disponibilità. Ha scritto come primo cittadino della comunità in cui vivono i familiari di Nadia Orlando al Presidente della Repubblica. Sì. E cosa ha scritto? Ho fatto un appello al Presidente della Repubblica, ma non solo. Ho inviato la stessa missiva al Presidente del Senato, alla Presidente della Camera dei Deputati e delle Commissioni di Giustizia, anche al Presidente Gentiloni e anche questa, perché devono prendere atto anche loro, al Consiglio Superiore della Magistratura e all'Associazione Nazionale Magistrati. Affinché intervengano subito in maniera decisa a revocare la misura. Esatto, a cambiare questa norma sulle misure cautelari che ci appaiono incomprensibili, soprattutto per i reati contro le donne o reati di sangue. Ma perché, sindaco, quali sono gli elementi che hanno contribuito a una scarcerazione, una trasformazione degli arresti in domiciliari in tempi così brevi? Cioè, premetto che io di diritto penale non ne so, sono ingegnere nella vita e sindaco, e quindi non mi permetto di entrare in un campo che non conosco. Comunque, da quello che ho letto, le motivazioni sono tre. Una, la reiterazione del reato, una, la rischio possibilità di fuga e uno, il rischio di prove. No, l'inquinamento delle prove. Tutti più o meno sappiamo quello che abbiamo letto. Uno degli altri aspetti, Alessandro, era il fatto che, vi ricordate che l'uomo si presentò con il cadavere della donna, lui stesso lo portò in questura, quindi arrivò di mattina dopo aver guidato tutta la notte, e questo è stato, credo, percepito come per alcuni versi come un attenuante, cioè il fatto che si sia costituito. Certo. Sì, più che altro l'inquinamento delle prove, perché lui ha portato, diciamo, il corpo. Il corpo e tutto quant'altro. Sì, ma al di là di in punta di diritto, sindaco, ma immagino che sia un paese, quanti abitanti fa Dignano? Allora, Vidulis è un paesetto di 450 abitanti, Dignano, tutto il comune sono 2005 nel cuore del Friuli. Quindi vi conoscete tutti, conosce i familiari, conosce anche i familiari dell'omicida probabilmente. No, quello è un paese distante, 30 chilometri dal nostro. La famiglia come l'ha presa? Lo so che è una domanda banale, ma voglio dire, come ci si rivolge anche da primo cittadino, da sindaco? Si va a casa loro e si dice: guardate, allora, devo dire una questo. Cosa, considerato anche che siamo in un piccolo comune e un piccolo paese, devo dire e devo ringraziare tutta la mia comunità per come sono stati vicini alla famiglia, una famiglia straziata dal dolore di una tragedia che per un papà e una mamma sono, penso, insopportabili. Invece tutto il paese, ma anche i paesi vicini, si sono stretti al nostro dolore e ci hanno dato prova di solidarietà, e io le ringrazio ancora. Anche molti miei colleghi sindaci si sono stretti al nostro dolore, e questo ci ha accompagnato in una fase molto difficile, molto delicata, per tutto il paese. Sì, adesso io non nutro grande fiducia che il Presidente della Repubblica, le personalità che lei ha non so nemmeno in che termini si possa rimettere mano alle misure cautelari, cioè chiaramente bisognerebbe rivedere. Sono state appena sistemate nel 2015, si potrebbe, si può anche fare ricorso, il capo dello Stato è a capo, ricordiamo anche il CSM. È stato fatto il ricorso, credo, no? Ah, le ha risposto, le ha risposto Mattarella. Sì, la segreteria di Mattarella mi ha risposto e mi ha fatto il suo cordoglio e di star vicino, ed è vicino alla nostra comunità, e ho apprezzato molto. E mi ha fatto capire, cioè mi ha scritto che manderà all'attenzione degli organi preposti per poter fare qualcosa, insomma. Cosa che ha già fatto anche lei. Vabbè, risposta giusta, però comunque adesso la Cassazione, perché la Procura di Udine invece ha fatto ricorso in Cassazione rispetto alla scelta della scarcerazione. Sì, alla scelta del riesame. Non so, queste cose sono un po' troppo tecniche. So che hanno fatto ricorso perché come tutti noi, tutta la gente, come sono più di 60.000 persone che hanno dato il loro disdegno su questo, su Facebook, sono 10.000 firme raccolte dai ragazzi di amici di Nadia. Cioè, c'è uno sdegno totale. Ma è chiaro, sindaco, poi anche lei immagino si associ nel concludere all'idea di... che non c'è nessuna richiesta di vendetta in tutto questo, c'è solo una richiesta di giustizia che appare un pochino, come possiamo definirla? Perché agli arresti domiciliari lo è, ma appare un po' incrinata, no? Anche come immagine, come... Sì, cioè come se ci fosse una sproporzione rispetto a quello che è successo. È una cosa inspiegabile. Stiamo facendo belli con molti discorsi contro il femminicidio in Italia. Ogni giorno leggiamo delle tragedie in mani. E nel momento in cui bisogna dare un segnale forte, deciso, su che cosa è giusto e cosa non è giusto, si vede che è un ammazzato dopo due mesi agli arresti domiciliari. Sì, però per esempio una cosa che mi ha colpito è che c'è stata una vera e propria sommossa dei detenuti, ho letto ad Udine, quando si è saputo che sarebbe stato scarcerato e infatti è stato trasferito nel penitenziario di Pordenone, quindi evidentemente anche i detenuti anche non, in carcere, non hanno colto questa misura cautelativa. Questo sì, sindaco, certo. Noi tendiamo a ritornare sulle vicende, quindi intanto la ringraziamo, Riccardo Zuccolo, sindaco di Dignano in provincia di Udine, e poi vedremo come va a finire. Io veramente sono indignato, ma perché, ripeto, non è che l'hanno lasciato libero questo ragazzo, non è che può andare in giro per il paese e fare quello che vuole, ma come andiamo a spiegare ai familiari? No, anche perché poi a volte ci sono invece delle misure cautelari molto più restrittive in situazioni magari appunto meno estreme, quindi è così. Comunque il funambolo Leonardo Manera è arrivato e dopo il traffico ci delizierà. Eccolo qua, state con noi. I funamboli. Almeno cercate di dire la verità, le mafie al nord sono radicate da quando hanno mandato i mafiosi in soggiorno obbligatorio al nord. È da lì che è partita la loro radicalizzazione al nord. tra mafia e politica, e sono da anni, da più di 40 anni, che esiste una collusione, un intreccio e basta. E nessuno riesce a chiudere questa cosa. È caduto il traffico. Va bene, chissà se gli ascoltatori sono felici oppure no, che non ci siano informazioni sul traffico. Alle 10.15 rimedieremo. Non credo che tra le 9.45 e 10.15 succedano dei problemi di traffico. Si può mai sapere. In questo orario il traffico comincia a non esserci più sulle tangenziali. Leonardo, buongiorno, buongiorno. Ma guarda, sentivo questa vocina. Vuoi farci tu il traffico? Code in risoluzione, come si dice. Code in l'importante risoluzione. È che siano in risoluzione. Vai. Vento forte fra San Vittore e Caianello, quello c'è sempre. Sì, vento sì, forte sì. Fra San Vittore e Caianello. Anche a Barberino del Mugello. Cioè, sì, c'è Barberino del Mugello. Sono i super classici. Sono i super classici. Però, caro Alessandro, Veronica, io sentivo prima, mentre parlavate di argomenti anche importanti stamattina, e anch'io sono stato colpito dalla vicenda del killer di Nadia Orlando, no? Perché da ragazzo io, quando insomma ero proprio, volevo fare il magistrato, anzi di più, volevo fare proprio il magistrato vendicatore, perché avevo 15 anni. No, come? Sì, sì. Pensavo di portare la giustizia vera in Italia. No? Col perché, mantello anche col mantello. Sulle spalle. Proprio tu. Perché avevo 15 anni, ascoltavo la radio Il Processo Tortora, che allora era in diretta su Radio Radicale, volevo diventare magistrato per salvare i giusti da una pena sbagliata come Enzo Tortora e condannare i colpevoli. Un po' come Tex Wheeler, da grande volevo diventare Tex Wheeler io. Poi quando ho visto che Tex in tutta la serie, in tutti gli episodi, non ha mai avuto una donna, ho cambiato idea. Però poi mi sono iscritto a giurisprudenza, ho cominciato a conoscere un po' il diritto. Il mio professore diceva, il professor Luraschi, mi ricordo, diritto romano, diceva la legge è uguale per tutti ma a parità di condizioni, cioè se hai lo stesso avvocato, la stessa giuria, lo stesso giudice e così via. In pratica quindi la legge non è mai uguale per nessuno, che non è proprio un ragionamento confortante. Poi sono entrato in carcere, non come detenuto, Veronica, ma c'era un periodo, lo hai pensato. Fai bene ma a perché dite così? Non l'ho pensato. C'era un periodo in cui ogni tanto andavo in carcere a parlare con i detenuti e vedere i carceri di San Vittore a Milano è un'esperienza che non si dimentica più, perché le celle sono lunghe più o meno 4 metri, larghe 2 metri, umide, scrostate, dove dentro ci stanno anche in 4, che per esempio potrebbero essere uno scippatore, uno stupratore, un rapinatore, uno spacciatore, e sono obbligati a stare insieme. Una specie grande fratello del crimine, però meno fastidioso quello vero, perché a commentare non c'è Alfonso Signorini. Ho ascoltato le loro storie. Un detenuto che era in carcere perché aveva dato un colpo d'ascia in testa alla moglie, ergastolo. Un detenuto che era entrato in carcere perché alla fine degli anni 50 per furto di mele era entrato in carcere e entrava e usciva dal carcere per reati sempre più gravi. Quando l'ho conosciuto io aveva ormai l'ergastolo perché aveva ucciso una persona su commissione tagliandogli la gola. E mentre mi parlava, non so perché, mi veniva da coprirmi con una mano il collo. Poi un detenuto che era in carcere per omicidio con occultamento di cadavere. Quando ho parlato con lui gli ho detto, caspita, è una cosa grave. Lui mi ha risposto, ma no, quello che ho ucciso era un albanese. Tutti con l'ergastolo, tutte cose vere le cose che vi sto dicendo. E lo psicologo del carcere mi ha detto che la notte più difficile per i detenuti è la prima, quella in cui molti tentano il suicidio, soprattutto se sono in attesa di giudizio, che magari qualche volta capita, sono innocenti. Non è come quando muori, che il giudizio di San Pietro è immediato. Ha detto Don Livio Fanzaga, Radio Maria, che appena muori un secondo dopo vieni giudicato, sei in paradiso o all'inferno, per l'eternità. Almeno c'è la certezza della pena. Poi è la giustizia divina, è inconfutabile, non c'è, almeno credo, Barbara Palombelli che può invocare la giuria popolare come a Forum. Invece stare dentro in carcere, anche per un solo giorno, se sei innocente, è un dramma vero. Ma il killer di Nadia Orlando non è innocente, anzi è reo confesso, ma i giudici probabilmente gli hanno dato i domiciliari perché è in attesa di giudizio e perché al momento pensano che non ci sia la possibilità che reiteri il reato. Insomma, paradossalmente per farlo stare in carcere prima dovrebbe rifidanzarsi o sposarsi in attesa di giudizio, adesso è, perciò i domiciliari, che è una cosa odiosa, ma il diritto a volte è discutibile, il diritto dei paesi avanzati. L'unica consolazione è pensare che poi lui sicuramente sarà condannato a una lunga pena. E invece grazie al diritto discutibile dei paesi avanzati molti innocenti soffriranno meno, perché San Vittore, Re Bibbia o Regina Celi comunque non sono te. E alla fine, ripeto, il killer di Nadia Orlando finalmente avrà la giusta pena. Leonardo Manera. Questa è una cosa di cui ho voluto parlare perché... Certo. Io sono venuto a contatto tante volte con i detenuti ed è un ambiente insomma che un po' conosco e mi sono reso conto poi di come sia l'ambiente. Ecco, persone, tra l'altro quelle che ho conosciuto io in carcere, tutte che ammettevano di aver sbagliato, di aver fatto delle cose gravi, tranne uno. L'unico che diceva di non aver sbagliato era uno che era in carcere per reati finanziari, per truffa. Tutti gli sosteneva altri di aver fatto benissimo. No, negava. Però... E ho fatto anche degli spettacoli in carcere per i detenuti, insomma, è sempre un'esperienza che colpisce molto, molto sì, forte dal punto di vista umano. E poi capisco anche che chi sta fuori, no, quando vede cose di questo tipo, poi resti molto colpito. È il diritto dei paesi avanzati. Assolutamente sì. Guarda che ci sono tanti ascoltatori ancora. C'è Piero da Roma. Buongiorno Piero. Buongiorno, buongiorno. Volevo tornare sul discorso della mafia e delle infiltrazioni sì, mafiose. Io volevo ricordare una cosa, perché poi il tempo passa e ci si dimentica: l'incapacità dei politici di capire quello che succede veramente nel proprio territorio. È stata una cosa eclatante tanti anni fa, che Saviano ha parlato di infiltrazioni mafiose della 'Ndrangheta, mi sembra, sì, in Lombardia, e Maroni pretese una, una trasmissione di repliche in televisione, che mi fa pensare, insomma, che ci si capisce poco di quello che succede nel proprio territorio. I politici purtroppo sono un po', vivono un altro mondo, un'altra realtà, non vivono come gli altri. Grazie Piero da Roma per la sua testimonianza. Andiamo a Bologna da Sandro, buongiorno. Buongiorno, guardi, io volevo dire le stesse cose che ha detto Leonardo Manera. Lui le ha dette con parole molto, molto, molto migliori delle mie, molto più, più chiare. È un po' paradossale che un comico debba insegnare il diritto, però insomma, noi siamo qua sempre a pendere delle labbra che comico veramente sono ammirato per quello che ha detto, anche perché dietro c'è una sua esperienza personale. Io non ho questa esperienza di contatto con persone in carcere, e io sono ingegnere come il sindaco che parlava prima, e capisco che diciamo, da un punto di vista, come dire, della giustizia, sì, come dire, generale, può sembrare e può essere sconcertante vedere questa persona che torna a casa. Però è anche, bisogna dire che questa persona è in attesa di giudizio, dove sarà sicuramente condannato. Guardi che è pieno in carcere, Sandro, di persone sì, circa, in attesa di giudizio. Circa un terzo sono in attesa di giudizio. E molte di queste verranno poi rilasciate, magari alcune anche con tante scuse, alcuni con risarcimenti. Perché... Però... È un caso un po' paradossale, perché quasi sicuramente, diciamo sicuramente, sarà condannato, ma questa stranezza di, o questa, diciamo, ribellione al vederlo tornare a casa è un prezzo che va pagato per, come diceva Manera, per il diritto che difende poi tutti noi quando veniamo. Allora, io, magari... no, io capisco che la filosofia di sottofondo è che nessuno vuole vedere le persone in carcere, però il carcere deve rieducare, ma il carcere è fatto anche di, per i coloro che hanno commesso reati, di una forma di punizione, cioè c'è punizione e rieducazione, cioè non passiamo dalla parte solo rieducazione, anche espiazione e rieducazione, questo dovrebbe essere. Sì, ma lui verrà condannato comunque. Ma certo che verrà condannato. E la cosa, il fatto è che il carcere di fatto non rieduca quasi nessuno, insomma. Questo, no, però in realtà il carcere è volto alla rieducazione, non è volto alla punizione. No, è rivolto, Alessandro, a due cose il carcere: alla punizione espiando una pena, rieducandoti nel sicuramente perché sennò il carcere è fatto per chi compie un reato e deve punire, deve essere punito questo, con una pena. Su questo siamo tutti d'accordo. Poi dopodiché che manchi la rieducazione, perché le carceri italiane non rieducano, anche per come sono fatte, questo sì è un dato di fatto. Certo che andrà in carcere poi, mi stupisco, ci sono gente in carcere che verrà rilasciata non colpevole e lui colpevole sicuro perché ha ammesso che non è in carcere. Però no, ma poi del reato di omicidio, insomma, non no? Esatto, non una cosuccia. Dai, andiamo al giornale radio, poi entriamo. I Funamboli, state con noi. Donna, in quei giorni particolari del mese ti piacerebbe poter andare in moto, andare a cavallo, andare in discoteca, cimentarti in incontri di lotta greco-romana? Ebbene, tutto questo con gli assorbenti Bellugi diventa un sogno. Assorbenti Bellugi, permeabili, evidenti, ingombranti. Assorbenti Bellugi, l'ideale per essere costretta a casa e poterti così dedicare a te stessa. Prova anche tu gli assorbenti Bellugi. Il segnale orario vi è offerto da Stufe e Caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. I Funamboli. Crionizzazione, un percorso di risveglio dopo la conservazione del corpo umano a temperature estremamente basse. Resero anche di Giulio Verne. La Life Extension, o LE come preferiamo chiamarla noi, è uno sguardo sul futuro. Entro un'ora dalla sua morte, la LE trasferirà il suo corpo in una capsula, dove sarà sigillato e congelato ad una temperatura di 126 gradi sotto zero. In poche parole, la sua angoscia, la sua sofferenza, persino la sua morte, non sono più necessarie in senso tradizionale. Questo era il film Vanilla Sky con Tom Cruise, Cameron Diaz, Penelope Cruz. Che io non ho visto, di cosa parla? Questa Life Extension, no? Che credo crei un questo processo di crioconservazione dei corpi una volta che muoiono. E quindi... Che fai, Leo? Gli fai le domande per coglierlo in fallo? Che sceglie sì, i pezzi di Vanilla Sky e non sa nemmeno di che parla? Perché su stringi di questo stiamo parlando. No, perché di questo parliamo adesso. È una cosa che può sembrare inquietante. Può che anche storia apparire... meravigliosa. Non vedo l'ora di raccontare questo allora, funambolo. Devo dire una cosa: che Veronica Gentili, dal primo giorno della prima riunione, quindi un mese fa, ha detto: io voglio Vitto Clout, voglio questo funambolo, voglio parlare con lui, voglio che vabbè, allora eccoci qua, le 10:09 minuti al momento. Il funambolo del giorno. Nome: Vitto. Cognome: Clout. Età: 68 anni, avvocato e presidente del Codacons Friuli Venezia Giulia. Dopo la morte si farà ibernare per rinascere tra 400 anni. Che messa così, cioè, non si capisce bene perché se è morto, se poi come fa a rinascere dopo 400 anni? Avvocato, buongiorno, buongiorno Vitto Clout. Buongiorno. Io faccio questa premessa: quando lo intervistai un po' di tempo fa, dice a domanda precisa, rispose: il 95% delle persone pensano che io sia un pazzo, il 5% un genio. Ora noi siamo in tre qua, io, Veronica, Leonardo, facendo un po' di statistiche. Io propendo un po' più per il pazzo perché se io è morto. Io penso che sia un intrepido. Ecco. Vitto Clout, lei è? Diciamo, guardi, io sono un sognatore e in realtà una persona che crede nella vita, una persona che ama così tanto la vita adesso, che se un giorno vi dicessero che mi sono suicidato, voi non ci dovete credere. E quindi avere questa possibilità di rivivere magari il mondo fra 400 anni sarebbe il mio sogno, cosa che sto facendo perché... ho stipulato un contratto in America con Alcor e quindi spero che infatti, prima o dopo... No, spieghiamolo perché c'è una società, Alcor si chiama, è una delle società, ci sono in Russia. Lei è andato in America, ha fatto un contratto con Alcor. In America ho fatto 15 giorni lì con loro. Ma no, aspetti, innanzitutto come le è venuto in mente? Cioè che uno a un certo punto dice, sai che faccio io? Invece di morire mi faccio ibernare e decido di farmi ritirare fuori, scongelare fra 400 anni. Non è che uno proprio allora, lo pensa la mattina. Tutto nasce da un'intervista che mi ha fatto nel 2001 un giornalista, sì, quando mi ha detto cosa vorrebbe fare lei, diciamo, quale sarebbe il desiderio più grande. Io ho detto vivere qualche minuto in più rispetto a quello che dovrei vivere normalmente. E quindi da lì ho letto un libro di Del Noce, che era un vostro, diciamo, corrispondente in America. Come no? E lui aveva scritto un libro nel 2003, diciamo, nel quale si diceva, si parlava dell'esistenza di questo centro ad Alcor in Arizona, e io dopo una settimana, quando ho letto, diciamo, più o meno la è storia andato lì. Questo centro, ho preso l'aereo, sono andato in America e mi sono informato di tutto. Alla e fine, lì lei diciamo, ha soggiornato un periodo, ha dovuto stare lì un po'? No, non ho dovuto, è stata una scelta personale. Perché prima di stipulare un contratto, prima di donare il mio corpo, diciamo, all'istituto di Alcor, ho dovuto, diciamo, andare a vedere di che cosa si trattasse. Ci sono tanti fake in giro per il mondo che magari uno dice... Ma c'è una cosa ci fanno. C'è una cosa che non capisco. Lei si vuole far ibernare dopo morto. E come fa a rivivere? Entro due minuti... aspetti un momento, dentro due minuti. Che c'hai fretta? Te lo spiega, sì. Hai fretta di farlo morire. No, te lo spiego. Le domande sono tante e diciamo sono da solo io e quindi conseguentemente uno alla volta, step by step. come dicono gli inglesi, no? Allora, il problema è di questo tipo. Io ho fatto un'analisi, indipendentemente da tutto, sul fatto che la medicina ultimamente abbia fatto dei progressi enormissimi, diciamo, no? Gente che viene risvegliata dopo 15 anni di coma, hanno cambiato il cuore, hanno cambiato tutto, ogni parte del nostro corpo, tranne il cervello ancora, ma forse ci riusciranno. Purtroppo. Dico, fra 150, 200 anni, 300 anni si riuscirà a riportare in vita anche una persona morta, perché lo studio, diciamo, è così celere, è così anche profondo, è così preciso che prima o dopo ci si riesce. Sì. E infatti non sono il matto, giustamente, soltanto io, come diceva mia mamma anche, perché quando è stata intervistata mia mamma ha detto che sono matto, vabbè. Ma siamo in 1500 in attesa di entrare in però America. Spieghi, rispondi alla domanda di Leonardo Manera. Cosa succede quando morirà? Proprio il procedimento preciso. Sì. Allora glielo spiego. Allora appena morto, diciamo, la testa mia viene portata a meno 96 gradi centigradi. Subito. Poi così? Sì, subito, a meno 96 gradi. Non c'è niente da ridere, Leonardo, comunque. No, infatti, se ci portassero la vostra... Fatelo parlare, che ci spiega. Fanno... Meno 96 gradi, poi... Meno 96 gradi. Poi fanno il trattamento, nel senso che mi tolgono tutto il sangue, al posto del sangue ci mettono dell'azoto, adesso una volta mettevano dell'acqua distillata, poi hanno scoperto che l'azoto è migliore, diciamo, e poi entro 6 ore, in pratica, da quando hanno fatto tutto il trattamento, diciamo, non soltanto mi tolgono il sangue ma fanno altre cose, perché sennò dovrei parlare per un'ora e mezza, diciamo, mi portano il corpo con la testa in giù a meno 196 gradi, che meno, diciamo, la temperatura ottimale, congelato, sì, pensa ottimale fino adesso, anche se ci sono degli studi recenti. Ho fatto un convegno l'anno scorso in Spagna, diciamo, e dicono che adesso si può arrivare a meno 142 gradi, che dovrebbe essere la stessa cosa, lo stesso effetto, diciamo, sì, da 196 142, un po' meno, dice, abbiamo guadagnato qualche grado, un po' meno. No, ridiamo, ma lui sarà morto, quindi non però c'è una cosa che non ritorna più. Quindi lei deve sapere più o meno esattamente anche il momento in cui morirà. Esatto. A meno che non vada sempre in giro con queste persone che le devono mettere la testa a meno 96, ma non credo. Allora guardi, io sono un grande viaggiatore, ho visitato 178 paesi al mondo almeno una volta. Sono tornato adesso dal Ghana, l'altro ieri dal Ghana, e ho fatto Ghana, ho fatto Costa d'Avorio, eccetera, tutti quei paesi lì. Lo sappiamo, Veronica Gentili non vedeva l'ora per intervistarla, ha detto, quando torna dal Ghana? Quando torna da questo Ghana, io non ne potevo più, ma voglio capire, se li ha già visti tutti questi paesi, a che serve farsi un'altra vita? Ormai li ha visti. Io lo faccio per lavoro, parlo 7 lingue correttamente, quindi... No, però è interessante sta cosa, cioè se lei, adesso non succederà, dovesse, capisce quello che vogliamo dire, dovesse, insomma, di colpo... Allora vi spiego, se dovesse capitare, allora io sto pagando $3,600 all'anno ad un'assicurazione che in caso di mia morte pagherà all'Istituto Alcor la differenza fino a $175,000. Questa è la cifra stabilita, diciamo, sulla base di quando io ho fatto il contratto, cioè 10 anni fa, ho fatto il contratto nel 2005, e quindi la differenza è... Sì, ma se le succede adesso, lei non è in Arizona, capisce? No, ma c'è un messaggio infatti che dice, ma se è entro 2 minuti, quindi lei gira sempre con un'infermiera americana pronta per beccare il momento fatale? No, aspettate un momento, insomma ci sembra... Allora, quando uno fa l'assicurazione, è come se fosse l'assicurazione della macchina, se non succede un incidente, diciamo, l'assicurazione si tiene i soldi, se succede l'incidente paga l'incidente. Allora succede la stessissima cosa: se a me capita di cadere con l'aereo e quindi non trovano neanche le unghie, l'assicurazione si tiene l'importo e io non vado da nessuna parte. Se invece cerchi di muoversi con cautela dopo tutti questi soldi spesi, Il mio amico, beh, insomma, €250 al mese non sono tanti. Se invece non vado a donne, quindi conseguentemente... Che vita triste. Vabbè, ma se invece... Ma si rifà dopo, nell'altra, abbi pazienza. Dice, se invece può programmare in qualche modo, allora, che ne so... invece, bravo, quando il mio amico medico mi dirà, guarda Vito, non c'è più niente da fare, tu fra 2 mesi lascerai questo mondo, io faccio sì. one way, vado in America, mi fermo lì e parlo dopo quello che vogliono di me. Ecco. Ha capito? No? Quindi, la mia domanda è, ma perché? Una volta gli ho chiesto, ma 400 anni dopo immaginerà il mondo brullo, vivremo sottoterra mangiando pillole, ma lei vuole vivere in questo mondo? Ecco, io voglio vivere in questo mondo perché sarà un'esperienza, diciamo, diversa, un'esperienza brutta, intensa. Che ne sai tu, ma conservatore, dai, passatista, retro? Guarda, magari sarà straordinario. Io invece lo difendo. Non lo so. Magari sarà bellissimo. Io ho cambiato idea su di lei. Ancoramento al passato. Soltanto di vedere, di provare, perché ogni cosa deve essere provata, certo. E deve essere, diciamo, analizzata di persona, perché le cose che vengono raccontate vengono sempre stravolte. E quindi, conseguentemente, quando uno ci va di persona, capisce di persona. Se poi riesce a ritornare in vita dopo 400 anni con un'esperienza del genere, chissà, che si possa anche rinnovare di altri 400 per il futuro. Che certo. L'immortalità! Guardi, devo dire che mi ha convinto. Un'immortalità a rate! Mi ha convinto e io ho deciso, se posso, di farmi ibernare con lei. Anch'io verrò. Paga. Sono di tendenza diversa, capito? No, quindi lo vedo con Manera, ci vuole un attimo a farlo innamorare. Lei già si è fatto sentire così pieno di idee e Manera subito ci è cascato. Ma poi tra 400 anni, secondo lei, ancora si penserà a quelle cose, no? Ancora sarà tutto diverso. Guardare qui, no, appunto. Il sesso, diciamo, proprio non ci sarà più. Tra 400 anni non faremo più all'amore, per esempio, ma i bambini nasceranno in incubatrice, penso, diciamo, no? Quindi non servirà neanche più fare, tra virgolette, nemmeno più quello. Una tragedia così, però. Comunque, ma è chiaro, Vitto Clout, noi la ringraziamo. L'ultima domanda, Vitto, ma non ha paura? Io non ho paura di nulla, veramente. Nella mia vita ho sempre trattato tutti i problemi secondo la razionalità che mi ritrovo, diciamo, quindi paura zero. Mi dà l'idea di uno. Come scrive qualcuno, lei è l'incubo della Fornero. Scherziamo, no, della Fornero per le pensioni, ovviamente. Grazie Vitto Clout, una storia incredibile, surreale, ma vera, insomma, ha fatto questo contratto. Il traffico. Axerta, indaga, documenta, accerta. www.axerta.it vi presenta i funamboli. Allora, vi ha che colpito. Che dispiacere lasciare questo argomento, sarei potuto andare avanti fino ma a stasera. Ma sai che veramente mi ha convinto, perché è una persona curiosa, questa è la cosa bella. Tra l'altro lui è un friulano, sì, ha detto, verrà messo giù nel Barilotto. Non è il Barilotto, un bel barile d'acciaio. Certo, viene barricato come i vini. Barricato. Comunque no, davvero ridiamo, impavido. Ragazzi, ridiamo, voi non avreste paura? Ma io sì, ma poi mi chiedo anche. Ma voi che ovviamente avete letto l'ultimo romanzo di Don DeLillo, Zero K, sulla criogenesi, no? Certo. Naturalmente. Voi simposio di intellettuali. Io stanotte, prima di venire qui per prepararmi. Sapete, vi avevo dato però il pilottino cinese su sta storia del libro di Don DeLillo, potevate darmi soddisfazione. Esatto, effettivamente c'era il Bignami di DeLillo, ricordate, il Bignami. Manera ha studiato tutti gli esami sul Bignami, tanto adesso nel weekend vengo lì e vi interrogo. Allora, signore, alle 10:22 minuti, i funamboli sono sempre qui in diretta, c'è Mary che ci chiama da Milano, buongiorno Mary. Buongiorno. Eccoci. Una considerazione su questa morte ancora certa, e la risurrezione, ma anche la pensione avrà risurrezione, appunto tante volte si dice muore una persona ma se ne va anche una pensione, e quella è un'energia virtuale che ora conta molto. No, ma Mary, credo proprio di no, anche perché non ci siamo addentrati, ma quando uno muore c'è un certificato di morte, quindi per lo Stato italiano il signor Vitto Clout sarà morto. Diciamo poi, che la faccia del suo corpo andando in Arizona. La pensione verrà congelata, diciamo. Ecco, sì, è il nostro Leonardo Manera, signori. Doveva dirla. Tra l'altro ha fatto un errore clamoroso prima, è andato in depressione da 20 minuti, cara Veronica, perché ha detto che la moglie che Tex Will non aveva più donne, non aveva mai donne. No, non è vero. Io era sposato con Lee. Io conosco perfettamente. Avevo letto qualche messaggio, conosco perfettamente la storia di Tex e Lilith. Lilith morì a causa di mercanti bianchi che portarono delle coperte infette di vaiolo, questo lo dico per gli amanti di Tex. Ecco. Si è informato e dato su Wikipedia adesso, Lilith e Tex. Non è vero. No, la verità è che lui ha preferito dimenticarla perché era stata una storia così straziante, Leo, che l'ha omessa. Per dunque, allora, visto che voi mettete in dubbio la mia preparazione su Tex, Lilith è morta intorno al decimo numero di Tex, proprio per Vaiolo, in cui Tex racconta la storia, poi da lì non ha più avuto donne, Tex, per tutta la vita praticamente. C'è scritto tutto su Wikipedia. Comunque, esatto, noi dobbiamo salutare la prossima funambola, che è funambolo, anzi, che è Valerio Capraro. Buongiorno Valerio Capraro e grazie di essere qui con noi. Buongiorno a voi e buongiorno a tutti i radiospettatori. Allora, perché questa storia che riguarda le zone terremotate è una storia molto interessante. Come si può, con una startup, che ci spiegherà Valerio adesso come funziona, di fatto fare delle cose che dovrebbero farlo, che dovrebbero essere fatte dallo Stato, ma che con una startup state facendo voi. Vicepresidente dell'associazione La Strada del Sale, nella provincia di Rieti siamo. La Via del Sale. La Via del Sale. Cosa fate voi esattamente? Allora, noi abbiamo cominciato il giorno stesso del primo terremoto, quello del 24 agosto, perché siamo un gruppo di ragazzi originari di Città Reale e di Donessa, che sono due dei comuni colpiti dal terremoto, e ci trovavamo lì, chi in vacanza, chi perché ci vive proprio, il giorno del terremoto, per cui quando abbiamo scoperto che i nostri cugini amatriciani stavano vivendo un momento terribile, siamo corsi ad aiutarli. E li aiutate concretamente, perché uno dei problemi è che non arrivano le casette, non si assegnano le casette, diciamolo francamente. Voi con la vostra startup avete già assegnato quante case? 29 casette provvisorie, si tratta di casette su ruote in attesa di quelle dello Stato, e una casa definitiva. Ma come avete fatto esattamente? Cioè, nella startup voi che cosa fate? Raccogliete fondi? Esatto, noi raccogliamo donazioni da parte principalmente di privati, ma anche di enti, di fondazioni. Abbiamo preso per esempio 20.000 euro da una fondazione svizzera e con questo acquistiamo o casette su ruote che diamo alle famiglie in attesa delle casette del governo, oppure il nuovo progetto che abbiamo lanciato a gennaio, stiamo completando adesso, una casa definitiva per una bambina disabile. Lo fate, Valerio, con una velocità che, parliamoci chiaro, allo Stato può sembrare una velocità incredibile, supersonica, perché gestite questi fondi, vi adoperate, fate le casette, insomma lo fate in maniera concreta. Sono filtri burocratici di nessun tipo e andate diretti. Sì, però il criterio di assegnazione di queste casette in base a cosa viene stabilito? Allora, le famiglie fanno richiesta a noi e noi teniamo una sorta di graduatoria dove diamo chiaramente precedenza alle famiglie particolarmente vulnerabili. E abbiamo aiutato 22 disabili, 20 bambini, purtroppo anche alcuni bambini disabili. Cioè quelli che dovrebbero avere una precedenza naturale da parte delle istituzioni, ecco, parliamoci chiaro, perché voi fate un'opera meritoria, vi abbiamo chiamato, ma forse quello che fate voi non dovrebbe esserci il vostro lavoro, Valerio? Dovrebbe è essere... chiaro, noi esistiamo perché c'è un buco istituzionale, questo sicuramente. Questo è il problema. Ma voi quanti siete, Valerio? Noi siamo una cinquantina. Tanti, quindi. Senti, ovviamente sai che è un momento in cui la gestione dei fondi, no? C'è tutta la polemica, c'era anche il sindaco di Amatrice oggi, la Luca Telese e Giannino, a parlare della gestione dei fondi. Voi come mostrate trasparenza? Perché dici anche poi magari un sito, un modo per contattarvi per chi volesse. Ok, allora, prima di tutto, a proposito degli SMS, vorrei dire dei fondi raccolti con gli SMS. Noi ci siamo sperati insieme al sindaco Pirozzi già da agosto, perché questa cosa è scandalosa, il fatto che siano stati destinati a scuole addirittura fuori dal cratere del sisma, Collevecchio, con tutto il rispetto degli amici di Collevecchio, però loro non hanno vissuto il terremoto. E per esempio a Città Reale abbiamo la scuola inagibile, il comune inagibile, e il 70% delle case inagibili non hanno visto niente di quei soldi. Chiaro. Riguardo a come gestiamo noi i soldi, noi pubblichiamo regolarmente un resoconto delle entrate. E cosa fate? E certo, no, è quello che fate, come le spendete. Esatto. Tra l'altro, Valerio e cara Veronica, vogliamo salutare invece una persona che abbiamo già chiamato, la cui storia abbiamo raccontato i giorni scorsi. È Gabriella Turchetti. Buongiorno, signora Gabrielli, figlia di Giuseppa. Giuseppa Fattori. Buongiorno a voi, ai radioascoltatori. Buongiorno. Ormai Giuseppina è diventata una celebrità. La 95enne di Fiastra, che non si capisce se verrà sfrattata o no. Che viene mandata via, così è la storia. Adesso Gabriella ci racconta come si sono evolute le questioni dalla sua casetta di legno definita abusiva e quindi andrà via con ordine di sgombero. Beh sì, sabato deve andare via perché sabato il nostro legale ha presentato istanza al Tribunale del Riesame, e che ancora non si è riunito per decidere una proroga allo sfratto, e di conseguenza, siccome noi siamo fortemente determinati a rispettare le norme vigenti, anche se c'è stato questo problema della costruzione della casetta senza l'autorizzazione al vincolo paesaggistico legato quindi alle normative sul parco dei Sibillini, però noi intendiamo adottare tutte quelle misure atte al rispetto delle perché norme. Ricordiamolo, quindi la mamma della signora Gabriella vive in una casetta che di fatto l'abbiamo ricostruito l'altra volta perché è considerata abusiva, nel senso non c'è un'autorizzazione. È una casetta di legno che ha fatto nel suo giardino. Ha 95 giusto, Gabriella? Anni. Sì, esattamente. E quindi ha chiesto i permessi ma non li ha avuti tutti. No, perché noi abbiamo edificato questa casetta di legno in un terreno di nostra proprietà edificabile e abbiamo depositato tutta la documentazione all'ex genio civile, abbiamo fatto l'indagine geologica, abbiamo fatto insomma tutte quelle che erano le prescrizioni inerenti l'urbanistica. E purtroppo invece siamo incappati nei vincoli, nei legacci delle normative sul parco. Il parco è che non prevedono sanatorie, quindi questo tipo di autorizzazioni vanno acquisite prima di costruire. Il fatto che si siano accesi i riflettori non ha cambiato niente? Cioè il fatto che se ne sia parlato tanto? Vorrei dire questo per chiarire un po', perché in questo momento anche sui social si è scatenato di tutto. Ho visto. Se noi dovessimo arrivare alla malaugurata conclusione di dover abbattere questa casetta, acquisendo poi in anticipo le autorizzazioni, noi potremmo ricostruirla esattamente così com'è e laddove è stata posta. Quindi è questo un pochino il paradosso. Beh, no? Sì, la dovremmo chiedere l'autorizzazione, poter poi arriva l'autorizzazione e potete ricostruire. Esatto, no, esatto, questo. Diciamo, la burocrazia è cieca. La burocrazia è cieca. No, qui il paradosso è doppio, perché quando si parla di costruzioni rischiose, perché sono rischiose in zone antisismiche, in cui c'è un elevato rischio sismico, è un discorso. Se invece la butti giù per rifarla esattamente nello stesso punto, diventa tutto. È per questo che l'edilizia è in ripresa in Italia. Si butta giù e si ricostruisce uguale. Va bene. Allora, noi dobbiamo chiudere nel ringraziare Valerio Capraro, che ha appunto è vicepresidente di questa associazione La Via del Sale, ci ha spiegato come loro danno le casette. Seguiremo Bravi. Anche la vicenda di Gabriella Turchetti, di sua madre, che è una vicenda che ha insomma diviso anche l'opinione pubblica, a dire beh, però è abusiva formalmente. Sì, però ha 95 anni, che si fa? Vedremo come va a finire questa vicenda. È sabato, tanto, quindi magari settimana prossima la chiamiamo e vediamo che succede. Cara Veronica, dobbiamo sentire le borse come vanno. Ascoltiamo le borse come vanno. Ascoltiamo le borse. Leo, tu sei interessato? Come no, ne ho tre di pelle. Allora. Non sapevo. Io ho detto no, non la dirà. Gliela, no. Però se gliela no, servi così proprio, no, direttamente, no, sul piattone d'argento. Non lo dirà. Ho l'impressione che Peter Bescapè, quando mette l'applauso, abbia un che di ironia. Quando... C'è Michele da Firenze che si offre di ibernarsi con te. Vabbè dai, è una storia lunga. Andiamo. Davvero? Sì, anche no, oggi l'ha fatto. Con te, Veronica, con te. No, no, ho capito. No, non volevo competere. Scherziamo. I funamboli. Disagree. Take me away. fidati in Milan che in Italia agli arresti domiciliari puoi fare quello che vuoi perché non ti controlla nessuno. Comunque con 30.000 lire il mio macellaio lo congelava meglio, eh. Non dimenticate l'altro classico, vento forte tra Cuculo e Prato la Peligna. C'era anche questo, Leo, eh. E sai che sono un appassionato di autogrill, conosco quasi tutti, quelli del centro nord li conosco praticamente tutti e ci sono i miei preferiti, tra l'altro, per quello che poi conosco anche le strade, eccetera. Il macellaio, cara Veronica, che congelava meglio il nostro Vitto Clout. Che dobbiamo fare? Beh, potremmo pensarci anche per noi al macellaio, eh. No, no, in che senso? Uno va a parlarci e dice: senta, ci possiamo mettere d'accordo che a un certo punto, no, mi mette la testa nell'abbattitore. Ma no, ma tra l'altro ci sono tanti sottoquestioni, cioè, che dice: ma tra 400 anni al momento uno rinasce, di cosa vive? Cioè, per questo ho chiesto, ma uno non ha paura, non ti trovi più accanto a una persona che conosci, non c'è più nessuna cosa a cui tu sei abituato. Non hai soldi. Subito lo vedi venale, materialista. Ma no, ma l'unico problema, oddio, non c'è il portafoglio in tasca. Ma scusa, ti svegliano in Arizona nel 2400, dico prego, vada, quella è l'uscita. Tu ti allora svegli ed esci nudo. Dunque, in Arizona. Sai, rispetto invece all'altro messaggio, quello che diceva che agli arresti domiciliari si può fare qualsiasi cosa, devo confermare che è vero, a me è capitato. Ero in Sicilia, ho rotto la macchina ed è venuto a soccorrermi un signore che era agli arresti domiciliari. Posso raccontare la stessa quindi cosa? Quindi proprio qualsiasi cosa, cioè persino andare a raccattare te. Ho un'amica che vende una boutique, vende vestiti. Un giorno entra un signore, me l'ha raccontata, entra un signore, cioè, dice guardi, proviamo i pantaloni. Ma cos'ha lì i pantaloni? Capito? C'ho il braccialetto elettronico. Ed era tranquillamente ad acquistare i pantaloni, quindi non poteva sfilarseli per provarli, quindi... sono succede. Due casi. Succede. Succede anche che ci ascoltino dall'estero, cara Veronica, eh? Lo sai? Lo sai? E questa volta da dove ci ascoltano? Ce lo dice Prince. Mm-hmm. Sempre Prince, guarda. Zelantissimo tutte le mattine. Ma perché è nata questa sigla legata agli ascoltatori all'estero? Cioè, che ci azzecca? Credo perché tu ti sei coperto di ridicolo il primo giorno. Ho facendo un altro motivo. Dici quale? È per pigrizia, perché Peter Bescapè in regia non ha voglia di cercare altro, quindi manda le stesse cose. Giusto, bravo. Ma che bravo! Sei bravo. No, tu sei molto, molto bravo. 800, no, il numero verde qua non serve mai, lo dico sempre, c'ho questo riflesso stupido che mi è... Numero degli SMS 349-238-6666. Oppure funamboli, @radio24.it, chiamateci, iscriveteci se ci ascoltate dall'estero, come fa il nostro Guido. Guido, buongiorno. Buongiorno. Attenzione, perché oggi andiamo... Dove sei, Guido? Ashgabat. Chi è Harry Potter? Capitale del Turkmenistan. Ah, in Turkmenistan. Dov'è esattamente il Turkmenistan? Allora, l'ho riguardato su internet, così faccio per la figura. Non lo sai neanche tu? Sì, perché non mi ricordavo. Mar Caspio, Russia, Uzbekistan, Afghanistan, e siamo molto vicini al confine con Tigran. Con l'Iran, dove ci sono tantissimi tappeni uzbeki, giusto? Bravo. Sì, però turkmeni sono. Sì, sì, sì, sì, sì. In Turkmenistan ci ascolta, io non so se si rendono conto gli ascoltatori, ma in questo momento la voce di Veronica Gentili arriva fino al Turkmenistan in diretta. Sì, forte e chiara. Sì. Mi chiara. Sentite, amici del Turkmenistan? E tu sei andato lì a tessere tappeti degli Shirvan turcomanni. No, ho avuto a che fare con i tappeti, sono venuto qua per lavoro perché faccio il production stage manager, che vuol dire il direttore di scena, coordinatore della direzione di scena, spettacoli, cerimonie, e ieri sono finiti i giochi asiatici indoor e delle arti marziali. Bello. Wow. No, perché se ci pensate c'è sempre da allestire palchi, manifestazioni, dirigere dal punto di vista artistico. E quindi adesso in Turkmenistan per questa manifestazione. E poi dove vai, Guido? Poi sto per tornare a casa con mia moglie, lavoriamo insieme, sto per tornare a Torino a casa e poi si riparte. Siamo freelance in questo lavoro e rimbalziamo in angoli strani del mondo, in cerimonie, spettacoli. Ma che bello. Quindi viaggiate tantissimo? Viaggiamo molto. L'anno scorso abbiamo fatto le Olimpiadi di Rio, poi qualche altra cosa e poi c'è stato. Qual è lo spettacolo più spettacolare? Ecco, mi ripeto che avete seguito. E dove? Abbiamo fatto comunque molte delle ultime Olimpiadi, quindi è difficile dire più spettacolare, ci sono tante storie diverse, ognuna delle storie più. No, Londra, le Olimpiadi di Londra, un coinvolgimento, una soddisfazione, una storia enorme, ma io per il fatto che è Brasile, per il calore umano, forse sto dicendo banalità, ma era... No, però... E da dove arriva la tua preparazione? Tu come sei arrivato a fare questo lavoro? Guarda, io lavoravo nel cinema, televisione come aiuto regista e mi hanno chiamato per fare lo stage manager alle Olimpiadi di Torino. Cioè, da lì, quindi, dalla tua città. Cosa volessi dire stage manager, sono andato a un colloquio e così. Hai detto vado. E da lì è diventata la nuova professione. È andata bene, sono entrato in questo giro, in questo mondo, conosci come succede nel lavoro, o conosci qualcuno che poi ne fa altre, si è continuato a fare, mi piace molto, ci piace. Quindi dal 2006 ho iniziato a fare cerimonie olimpiche e altri spettacoli. Beh, ma insomma è stupenda questa cosa. E dal Turkmenistan, cioè si sta parlando, ma ci sta ascoltando. Ma com'è il Turkmenistan? Bello? Allora, ha delle cose interessanti. È un paese davvero... La cosa più bella è stato comunque conoscere, come sempre, le persone che vivono qua, perché poi ti ridà una dimensione giusta delle cose. È bello... Non lo so, la città di Ashgabat è tutta che sembra finita, è tutto marmo bianco, case, tutto perfetto. Tu la notte vedi le persone pulire con gli spazzolini da denti, le strisce pedonali, quindi è tutto, questo è per dirti il livello di pulizia e di cose che c'è. C'è un presidente molto rispettato. Diciamo così, diciamo rispettato, va bene, non sbilanciamoci. Ho paura di non tornare, diciamo. Esatto. Voglio essere sicuro. No, sì, è molto interessante. Sembra di fare un passo. Abbiamo vissuto un salto, non so neanche se indietro negli anni. No, ma comunque Guido, tra l'altro adesso la linea telefonica dal Turkmenistan, dopo che hai detto questa cosa sul loro presidente, sta un po' scivolando via. E no, scherziamo, ti ringraziamo tantissimo, perché poi c'è sempre quello che deve mettere. Possibile che in Turkmenistan non abbiano loro esperti di scienza della comunicazione? Un ascoltatore, ma è andato a portare via il lavoro in Turkmenistan, è andato a fare la... No. Guido ruba il lavoro ai turkmeni. Hai capito che è così la storia? Ecco, lo vedi? Anche in Turkmenistan ci sono gli immigrati. È entrato Battista per un attimo, ma l'abbiamo fatto uscire. Dobbiamo andare al traffico, dai, che poi c'è Leonardo Manera ancora. State con noi, eh? Hai problemi di stitichezza? Hai già provato tutti i rimedi, ma nessuno ti fa accomodare sulla tazza? Allora prova ad assaggiare i biscotti di Nonno Piero. I biscottini in offerta a 30x2 che ti daranno il piacere desiderato da tempo. E che si abbina una meraviglia non solo alla tazza del latte. Biscotti di Nonno Piero, tutto il gusto della libertà intestinale. I funamboli. E allora, alle 10:49 minuti, Leonardo stava raccontando che voleva lanciare adesso un'iniziativa. Sì, perché penso che Radio 24 debba in qualche modo fare anche servizio pubblico. Non so come lo pensate assolutamente voi. Assolutamente sì, per prenderci poi parte del canone va benissimo. Sì, ho già paura io di questa premessa. Dobbiamo renderci utili, è un periodo in cui si parla molto di extracomunitari in Italia. Io voglio rendermi utile per gli extracomunitari che sono in Italia, per aiutarli ad integrarsi. Quindi se Peter Bescapè mi fa partire... Corso di integrazione per extracomunitari. Fantastico! Finalmente. Ma che idea, Leo? È una bella idea, devo dire. Come lo facciamo questo corso, Veronica? Lo facciamo spiegando di volta in volta il significato di alcune parole italiane importanti per gli italiani, in modo che anche l'extracomunitario possa capire e integrarsi. Sei d'accordo? Un'ottima idea, fantastica. Allora, la prima parola che voglio spiegare agli extracomunitari è casa. Anche a casa, se siete voi extracomunitari, potete ripetere casa. Casa. E spieghiamo cos'è. La casa è quel posto dove se si vive da soli, si è soli. Se si è sposati, si è soli. Se si hanno... Se si hanno figli, invece, si esce da casa per andare al bar. Spesso, per pagare la casa, ci si mette tutta la vita attraverso un mutuo. Gli amici possono ripetere mutuo, cioè un prestito che può durare anche molti anni. E spesso, finito di pagare il mutuo, si prova un senso di grande solitudine, perché non c'è più il compagno di una vita e ci si dedica all'alcolismo. La lunga durata del mutuo serve quindi a mantenere un corretto stile di vita. Per gli amici extracomunitari vediamo alcune frasi che contengono la parola casa. Perché oggi stai a casa? Perché stasera gioca la nazionale di calcio. Oppure, perché oggi esci prima dal lavoro? Perché stasera gioca la nazionale di calcio. Oppure, perché hai comprato casa? L'ho comprata per lasciarla a mia moglie quando mi separo. Ripetiamo insieme, separo. Bene, amici extracomunitari, veniamo alla seconda parola di oggi, che è calcio o giuoco del calcio. Ripetete insieme, extracomunitari, giuoco del calcio. Il calcio... Questa anche per Veronica, secondo me, attenta. Giuoco perché... del calcio. Puoi imparare questa anche devo... tu. Dai, vediamo se allora, riesco ad integrarmi. Ti spiego cos'è il calcio, Veronica, e lo spiego anche agli extracomunitari. È lo sport nazionale italiano e aiuta le persone a sfogarsi. Bravi e onesti padri di famiglia vanno allo stadio o guardano le partite in TV per insultare l'arbitro e ritrovare così un equilibrio psicofisico. È allo studio attualmente una variante del giuoco del calcio dove invece di 22 giocatori ci sono in campo 22 arbitri senza palla da insultare a scopo terapeutico. Vediamo ora alcune frasi che contengono la parola calcio. La prima è di uso comune tra i genitori. Mio figlio ha solo 4 anni ma è già un campione di calcio. Oppure, perché giochi a calcio? Per farmi le gnocche. Oppure, perché mandi tuo figlio alla scuola calcio? Perché mi basta che diventi ricco la metà di Donnarumma. Questa è una parola complicata, anche composta. Ripetiamo insieme, metà di Donnarumma. Ecco, l'ultima parola di oggi è caffè, parola importante, no, per gli italiani, tutti gli italiani. Caffè è una bevanda scura, nera, quasi sempre servita in tazzina, con o senza zucchero, che per gli italiani è un vero rito. In tutti i luoghi di lavoro è in uso la cosiddetta pausa caffè, che spesso dura più del lavoro stesso. Chi non beve il caffè in compagnia o a fine pasto si sente emarginato, escluso dal gruppo sociale. In molti, per evitare questo problema, non amando il caffè, ripiegano sul caffè d'orzo, una ciofeca che risolve i problemi sociali, ma spesso ne causa di non meno gravi: nausea, disgusto, secchezza delle fauci, sindrome di Steven Johnson. Negli ultimi anni al bar si possono bere svariati tipi di caffè. Oltre al classico macchiato caldo, macchiato freddo, si sono aggiunti per esempio il marocchino o il moccaccino. A causa di tutti i possibili tipi di caffè, i baristi vanno spesso incontro a esaurimento nervoso, depressione, salivazione eccessiva mista a secchezza delle fauci. Per riprendersi e ritrovare un equilibrio psicofisico, di domenica vanno allo stadio e insultano l'arbitro e poi vanno al bar a bere un caffè. Per finire vediamo alcune frasi che contengono la parola caffè. Stamattina è già il terzo caffè che bevo. Oppure, stamattina è già il quarto caffè che bevo. Oppure, dottore, ho la pressione alta, non sarà colpa dei caffè? Bene, arrivederci alla prossima lezione di corso di integrazione per extracomunitari. Così, chi ha fatto palo? Va bene. Un ruolo sociale. Un ruolo da servizio pubblico, mi sembra giusto. Speriamo che abbiano imparato queste parole gli amici extracomunitari che sono all'ascolto. C'è Roberto da Bologna che non è extracomunitario, ma chiudiamo con lui. Roberto, buongiorno. Buongiorno. Bene. Eccomi qua. È tutto molto bello. Abbiamo 22 secondi, però Roberto, su. Spremiamoli. Come detto prima. Io sono l'unico, così mi disse lo chef del border dell'Arabia Saudita, ad aver raggiunto Jeddah nel sud dell'Arabia Saudita da Modena in macchina. Modena-Jeddah, attraversando Grecia, Turchia, Siria e Giordania, poi 1200 chilometri nel deserto, e così sono arrivato a Jeddah con 6700 chilometri in 7 giorni. Lavora nei servizi segreti, Roberto. Roberto, ma tu sei un funambolo, altro che, eh? Qui c'è, no, così, tra capo e collo, un funambolo a fine puntata. Purtroppo non sono riuscito a collegarmi prima. No, ma infatti quando ha detto, beh, come avevo già detto, perché parlano con le centraliniste, ecco, per dire. Però dobbiamo chiudere con Peter Bescapè in regia e i nostri Lorenzo Nespoli, Elisabetta Fusconi, Elisa Pancaldi. Ci fermiamo. Io vado a informarmi per farmi ibernare. Oggi pomeriggio vado a capire.